Venticinquesimo canto dell'Inferno, dalla Divina Commedia di Dante Alighieri. Registrazione di pubblico dominio effettuata per LibriVox da Filippo Gioachin. Inferno, venticinquesimo canto. Al fine delle sue parole il ladro le mani alzò con amendue le fiche, gridando: «Togli, Dio! Cattele, squadro! Da indi in qua mi fuor le serpi amiche, per ch'una li avvolse allora al collo, come dicesse: non vo che più diche, e un'altra alle braccia, e rilegollo, ribadendo se stessa sì dinanzi, che non potea con esse dare un crollo. Ahi, Pistoia, Pistoia, che non stanzi d'incenerarti sì che più non duri, poi che n malfare il seme tuo avanzi?» Per tutti i cerchi dello inferno scuri non vidi spirto in Dio tanto superbo, non quel che cadde a Tebe giù dai muri. El si fuggì che non parlò più verbo, e io vidi un centauro pien di rabbia venir chiamando: «Ov'è? Ov'è l'acerbo?» Maremma non credio che tante n'abbia, quante bisce egli avea su per la groppa, infin ove comincia nostra labbia. Sovra le spalle, dietro dalla coppa, con l'ali aperte li giacea un draco, e quello affuoca qualunque s'intoppa. Lo mio maestro disse: «Questi è Caco, che sotto il sasso di Monte Aventino di sangue fece spesse volte l'aco. Non va coi suoi fratei per un cammino, per lo furto che frodolente fece del grande armento che li ebbe a vicino, onde cessar le sue opere biece sotto la mazza d'Ercule, che forse gliene die 100 e non sentì le 10». Mentre che sì parlava ed el trascorse, e tre spiriti venner sotto noi, de quai né io né il duca mio s'accorse, se non quando gridar: «Chi siete voi?» Perché nostra novella si ristette, e intendemmo pur ad essi poi. Io non li conoscea, ma ei seguette, come suol seguitar per alcun caso che l'un nomar un altro convenette, dicendo: «Cianfa, dove fia rimaso?» Perch'io, a ciò che il duca stesse attento, mi puosi il dito su dal mento al naso. Se tu sei or, lettore, a creder lento ciò ch'io dirò, non sarà maraviglia, che io che il vidi appena il mi consento. Com'io tenea levate in lor le ciglia, e un serpente con sei piè si lancia dinanzi a l'uno, e tutto a lui s'appiglia. Coi piedi mezzo li avvinse la pancia, e con li anterior le braccia prese, poi li addentò e l'una e l'altra guancia. Li deretani alle cosce distese, e miseli la coda trambe due, e dietro per le ren su la ritese. Ell'era abbarbicata mai non fue ad alber sì, come l'orribil fiera per l'altrui membra avviticchiò le sue. Poi s'appiccar come di calda cera fossero stati, e mischiar lor colore, né l'un né l'altro già parea quel ch'era. Come procede innanzi dall'ardore, per lo papiro suso, un color bruno, che non è nero ancora, e il bianco more. Gli altri due il riguardavano, e ciascuno gridava: «Omè, Agnel, come ti muti? Vedi che già non sè né due né uno!» Già eran li due capi un divenuti, quando n'apparver due figure miste in una faccia, ov'eran due perduti. fersi le braccia due di quattro liste, le cosce con le gambe e il ventre e il casso divenner membra che non fuor mai viste. Ogni primaio aspetto ivi era casso, due e nessun l'imagine perversa parea, e tal sen gio con lento passo. Come il ramarro sotto la gran fersa dei dì calicular, cangiando sepe, folgore par se la via attraversa, sì pareva, venendo verso lepe degli altri due, un serpentello acceso, livido e nero come grandi pepe, e quella parte onde prima è preso nostro alimento, a l'un di lor trafisse, poi cadde giuso innanzi lui disteso. Lo trafitto il mirò, ma nulla disse, anzi, coi piè fermati sbadigliava pur come sonno o febbre l'assalisse. Egli il serpente e quei lui riguardava. L'un per la piaga e l'altro per la bocca fumavan forte e il fummo si scontrava. Taccia Lucano ormai là dov'ei tocca del misero Sabello e di Nasidio, e attenda a udir quel cor si scocca. Taccia di Cadmo e da Retusa Ovidio, che se quello in serpente e quella in fonte converte poetando, io non lo invidio. Che due nature mai a fronte non trasmutò sì ch'amendue le forme a cambiar lor matera fosser pronte. Insieme si rispuosero a tai norme che il serpente la coda in forca fesse e il feruto ristrinse insieme l'orme. Le gambe con le cosce seco stesse s'appicciar sì che in poco la giuntura non facea segno alcun che si paresse. Togliea la coda fessa la figura che si perdeva là, e la sua pelle si facea molle e quella di là dura. Io vidi entrar le braccia per l'ascelle, e i due piè della fiera, che eran corti, tanto allungar quanto accorciavan quelle. Poscia li piè di retro, insieme attorti, diventaron lo membro che l'uom cela, e il misero del suo n'avea due porti. Mentre che il fummo l'uno e l'altro vela di color nuovo, e genera il pel suso per l'una parte e dall'altra il di pela, l'un si levò e l'altro cadde giuso, non torcendo però le lucerne empie sotto le quai ciascun cambiava muso. Quel che era dritto il trasse ver le tempie, e di troppa matera ch'in là venne uscir gli orecchi delle gote scempie. Ciò che non corse indietro e si ritenne di quel soverchio, fe naso alla faccia e le labbra ingrossò quanto convenne. Quel che giacea, il muso innanzi caccia e gli orecchi ritira per la testa come face le corna la lumaccia, e la lingua ch'avea unita e presta prima a parlar si fende e la forcuta nell'altro si richiude e il fummo resta. L'anima che era fiera divenuta suffolando si fugge per la valle, e l'altro dietro a lui parlando sputa. Poscia li volsi le novelle spalle e disse all'altro: ivo che buoso corra, come ho fatto io carpon per questo calle. Così vid'io la settima zavorra mutare e trasmutare, e qui mi scusi la novità se fior la penna abborra. E avvegna che gli occhi miei confusi fossero alquanto e l'animo smagato, non poter quei fuggirsi tanto chiusi ch'i non scorgessi ben puccio sciancato, ed era quel che sol di tre compagni che venner prima non era mutato. L'altra era quel che tu, Gaville, piagni. Fine del 25° canto dell'Inferno.